want to help the farmers to understand the land, to know how harmful it is, because in the 90s, in the 80s, there started to be a lot of with the thing that they put on the ground, they hurt the land, basically, with all these, all the chemicals for the plants to grow, to be like Monsanto and everything that they started to breed. Monsanto, sorry. So this is like a photograph of Rancy, basically, of the vineyard, and it's from the soil. Once it is totally revealed in 10 days, you can make an analysis of soil, and that's where the project starts. But it has to be with Rancy and, yeah, basically what it is to work the land, to be in the land, and because you grew there also. So these are the questions. No, you can read in Italiano. In Italiano. Nice Italian. No, la prima accent. Domanda. Cosa significa Rancy per te? Cosa significa? Che cosa? Tu vai spesso a Rancy, giusto? Ah, perché? Ma devo parlare in italiano o in inglese? Italiano. Ma un posto tranquillo dove rilassarsi e liberare la mente magari da pensieri del lavoro, della propria vita e basta. È tutto? Sì. Qual è la tua parte preferita del vigneto di Rancy, del giardino? Dice Asu, ma in realtà è vigneto, sì. Orto, sono le tre fasce. Qual è la parte preferita? Sì. Ma come posto? O... Credo che significhi dove ti senti più a tuo agio, dove ti piace di più. Fisicamente. Quando sei lì. Ah. Ma non c'è un posto in particolare che mi piace di più. Stai bene, cioè, da quando varchi. No, no! Dovevo rileggere la domanda. Qual è la tua parte preferita del giardino? Che sarebbe del vigneto, delle tre fasce, dove c'è l'orto, dove stai bene, dove ti piace di più fermarti un momento a non far niente, per esempio. Beh, innanzitutto non mi fermo mai quando sono lì a far niente. Ok, allora dove ti piace di più lavorare? Ma dove c'è più bisogno, non è che c'è un posto che mi piace di più. Cioè tu vai lì con l'intento di fare delle cose perché devi, sì, perché prenderti sempre... mi fai finire, sì. Perché vuoi prenderti cura di quello che c'è da fare, insomma, sì. Della terra, del vigneto, delle piante, degli ortaggi, gli alberi da frutto. Sì. Quindi ti piace prenderti cura di quello che c'è? Sì. È una soddisfazione raccogliere Rancy o è più un sì, o lo senti più come un dovere che devi fare? No, beh, è una soddisfazione, che tu fai mangiare quello che produci, o bere il vino, sempre che fatto tu, perché noi il nostro vino che facciamo lo facciamo, diciamo, tutto noi, da quando abbiamo messo le piante a ogni anno, cioè fai tutto il ciclo culturale, quindi da quando c'è la potatura d'inverno, la legatura, oppure magari togliere certi getti che non vanno bene, cioè fino a poi raccogliere l'uva, schiacciarla, metterla nelle botti, fare tutto il processo di vinificazione fino a imbottigliarlo. Quindi e poi... il nostro vino è tutto fatto da noi. Quindi non lo senti come un peso, ma più come un piacere, una soddisfazione. Sì, beh, soprattutto poi è buono il vino, quindi cioè, uno poi lo beve volentieri. Cosa dice? Azu sembra che anche ad Azu piaccia, vero? Il vino? Wine, do you like? Yes? Yeah? Yes, yes. Not an expert, yes. Qual è la cosa che ti piace di più dell'intero processo di coltivare i tuoi cibi e il vino, cioè dell'orto e del vigneto? Invece qual è la cosa che ti pesa di più o ti... tu hai usato disgusta, ma ti pesa di più, che è più difficile, più faticoso, no? Che non hai voglia di fare. Quella che ti piace di più e quella che ti piace meno? Piace di più, beh, il fatto di mangiarsi le cose che si è fatti con le proprie mani, fondamentalmente. Sia io che tutta la mia famiglia. E invece la cosa che magari mi piace di meno è che, per esempio, adesso col lavoro che faccio magari non posso dedicarci il tempo che vorrei dedicarci, no? Perché alla fine la campagna richiede sempre lavoro e come tutte le cose, più tempo c'hai e più tempo lei richiede, nel senso, non è che, cioè, anche se sto tanto a casa, alla fine c'è sempre qualcosa da fare, no? Quindi non so come dire, però ti sembra di non esserci mai stato a sufficienza? No, vabbè, quello che voglio dire è che non riesci mai a finire tutto quello che vuoi fare. Appunto, ti sembra sempre di essere un po' mancante, sì, no? Nei confronti. Trovi sempre qualcosa da fare alla fine, no? Cioè, ti inventi sempre qualcosa per te tenersi occupato. Io approfondirei tutto questo, cioè a livello proprio di analisi interiore, e farei veramente un approfondimento. Sta bene. Qual è la tua verdura o frutta raccolto preferita che viene coltivata a Ranzi? Credo che il vino. Sì, beh, il vino, poi beh, anche le piante da frutto. Se mai riusciremo a avere delle pesche, perché adesso è impossibile avere le pesche, porca di quella. Come mai? Ma ce n'è sempre una, o ci sono i funghi, o ci sono gli insetti, o cazzo, ci sono i topi, però devi sempre lottare per... È una lotta, insomma, sì, riuscire a avere un buon raccolto con gli alberi da frutto è difficile. È una lotta per la sopravvivenza. Sì, perché effettivamente... Vabbè, quest'anno è il primo anno che prendiamo le ciliegie in buona quantità. E abbiamo fatto anche la marmellata di ciliegie per il primo anno, meno male che le abbiamo raccolte tutte. Poi anche i pomodori, giorno. Perché a me piace tanto la pasta col pomodoro, quindi pomodoro sicuro ti fa piacere. L'ortaggio che mi piace. Sì, perché poi l'anno scorso l'hai anche messo nei sacchetti e surgelati e per mangiare la pasta col pomodoro fresco anche in inverno, no? Sì. Ok. Sì, perché poi chiaramente la verdura viene tutta concentrata che ti esce anche dalle orecchie, però per fortuna nel 2023 che siamo, sono in freezer, la sbatti in freezer e c'è la verdura tutto l'inverno. Qual è la tua stagione preferita a Ranzi? No, forse... la tarda primavera, perché c'è ancora il verde molto vivo, invece già poi con l'estate che c'è secco, diventa, i colori si ingialliscono, invece mi piace più questo periodo qua. Poi anche non fa troppo caldo, quindi ecco, che quello è importante, più volentieri. Ti senti connesso al giardino o come pensi di poterti connettere con Ranzi? Mi fai la domanda? Ti senti connesso al giardino o come pensi di poterti connettere con Ranzi, cioè quando tu sei nel vigneto, nell'orto, in mezzo agli alberi e ai frutti, ti senti parte di questo spazio naturale, anche se di naturale non c'è più nulla, però diciamo fatto di piante, di ortaggi, la vigna, frutti, sì, oppure che, come ti poni nei confronti del, dei vegetali? Sì, mi senti un tutt'uno nell'ambiente in cui sei. Non so se hai risposto. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ci sono le tue risposte. Ma se sì, hai risposto. Cioè, se il soldato della domanda era quello. Certo. Non è che abbia capito molto la domanda. Se quando sei, te la ripeto, entra le zanzare. Sono entrate le zanzare. Se quando sei nelle tre fasce, sì, o anche nell'orto, l'altro, per, sì, insomma, a contatto con questo orto e questo ambiente, tu ti senti parte o ti senti come un essere che domina la natura, no, che la tiene con le redini in mano, no, che ti senti forte perché tu... Eh no, è così. Ci sono persone che quando sono in quelle situazioni si sentono potenti perché dice, ah guarda io uomo cosa posso fare, oppure semplicemente se quando sei lì in mezzo tu dici io sono qui in mezzo e mi sento perfettamente a mio agio. Sì. Like the way you feel in the sea for example, that you feel more dominant I guess, or do you feel that you're part of the sea, that you have to flow with the sea? Yes. How does it feel the garden, like do you have to flow with it or? Yes. Non è un dominatore. It's okay, he flows. It's better to flow than... Sì, sì. Poi, anche le ultime 5, 6, 7? Yeah, così we... You did this. No, io già sono arrivata qua. Ah, vabbè, okay. Yeah. No, I was... Come ti fa sentire avere la terra tra le tue mani quando traffichi... con che, la motozappa e poi fai i solchi e poi cioè le mani sporche? Sì, non mi dà problemi. No, ti fa piacere, ti dà fastidio, non vedi l'ora di andarti a fare la doccia? Dopo sì, perché avere le mani sporche a me dà fastidio, quindi però cioè, sul momento non è che mi faccia schifo sporcarmi le mani di terra o di merda quando tiri il letame. Però poi dopo quando arrivo a casa sì, mi piace avere le mani pulite, a me mi passo anche la limetta sotto le unghie. Yeah, I know. When you are at home. Yes, cioè, also, anche mi cambio i vestiti perché mi dà fastidio magari l'odore dell'erba addosso. Certo, cioè quando sei lì va tutto bene, sì, mi sembra di capire, no? Correggimi se dico sì, delle sì, stupidaggi. Quando sei lì fai quello che c'è da fare, sì, ti senti a tuo agio, chiaramente quando arrivi a casa sì, ti sì, piace avere la doccia la e la maglietta pulita e insomma rientri nei panni dell'uomo civile che sta in mezzo alla gente, sì, no? Mi sembra di capire. Sì. Do you like to go through that process? Of like getting dirty and just thinking afterwards I'm going to get clean. Sì, non lo vedo un problema sporcarsi, cioè non è che sto lì non mi inginocchio perché ci si sporca le ginocchia, cioè se le cose bisogna farle, non è che devi stare a pensare, cioè se no cambia sport. Che cosa significa la terra e il suolo per te? Beh, un'opportunità per un'opportunità, cioè per mettere giù due piante e mangiare qualcosa. Che tipo di impatto ecologico pensi che abbia coltivare il proprio cibo? Beh, secondo me una cosa è che ti... come si può dire? Cioè, siccome per farsi poco ci vuole tanta fatica, secondo me ti rende più responsabile, per esempio, nel non sprecare il cibo, perché dici, dopo che ti sei fatto un mazzo tanto, non sprechi il cibo, no? Hai per molta esempio, più attenzione, sì, Nene. Come impatto. Diciamo, percepisci di più il valore. Secondo me sì. Di, al di là di quanto possa costare quando lo vai a comprare nel negozio, sì, però quello che hai prodotto no, è... perché sì, cioè, è molto più facile comprarlo nel negozio, se ci pensi. Però se non ti chiedi... quanta fatica magari hai fatto per farli venire su, allora magari sei più... più attento. Cioè, quindi anche più rispetto, cioè, no? Finito. Something else? Grazie. Prego. Era... sei molto chiuso, Nicolò. È molto chiuso nel rispondere. Sì? We interview you next year to see how you feel about the story. Maybe you have time to think. No, I think it's not time, but it's... Because, perché le cose che faccio io le faccio per me stesso, non è che sto a pensare... You don't he doesn't romanticize. Non è romantico. Soil. È un ingegnere. È un ingegnere. Metto gli ortaggi per mangiare, la vigna per fare il vino. But that's a good point of view also, because it's also that sì. How we have treated soil, like most of the time, right? And only now or in the last years it's been like, oh, we need to be more ecological, you need to take care of what you're eating and you need to be like this and this. But before it used to be like, okay, I need this, I plant this, I get this. So it's practical, like you have these two ways of seeing agriculture as a way of feeding the masses, three times. Second, practical. Third, you can romanticize agriculture, like I am doing it. So it makes sense. It's a nice point of view too. Sí. So it's valid, so it's nice. You get this. Because it's practical, so it's nice. Thank you. Grazie. Grazie a su. Grazie. Grazie, prego.